in primo piano. Buongiorno, buona domenica, buon primo novembre da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo oggi dal Sole 24 Ore, anche perché è quello che ha un po' i titoli un pochino più un po' diversi, mentre quasi tutti gli altri quotidiani hanno il titolo principale e a volte anche la fotonotizia dedicata all'ultimo giorno di Expo. Sole 24 Ore ha due titoli paralleli. Uno è quello che riguarda Telecom, un'azienda, una società soprattutto, dico società soprattutto nel senso che adesso parliamo di quello che succede a Telecom proprio dal punto di vista finanziario, nel mirino un po' di due francesi che stanno cercando di aumentare la propria quota in Telecom, e questo ha portato tra l'altro a molti movimenti in borsa del titolo e a un balzo venerdì che ora porta il titolo ai multipli più alti d'Europa, spiega Antonella Olivieri in un pezzo che poi trovate a pagina 21 del Sole 24 Ore, che inizia in copertina e si intitola Telecom conta in assemblea. C'è infatti i soci istituzionali della società sono in allerta per una riunione straordinaria che potrebbe votare un nuovo CDA, e quindi anche vedere come reagire a queste mire non soltanto del finanziere francese Bolloré, che già nei mesi scorsi aveva aumentato le sue quote in Telecom, ma di un altro investitore francese, Nil. L'analisi è sempre di Antonella Olivieri, azionisti stabili per una strategia vera. Il secondo titolo principale è molto legato alla lunghissima intervista che Mario Draghi, governatore della BCE, ha concesso ieri al Sole 24 Ore, al nostro direttore Roberto Napoletano, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, e ad Alessandro Merli, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. In quell'intervista Mario Draghi parlava del quantitative easing, della sua priorità che è l'inflazione circa il 2%, e ora il seguito di quell'intervista si rifà alle dichiarazioni fatte ieri da Mario Draghi, e il titolo: la BCE studia il QE2, cioè il quantitative easing 2, taglio dei tassi e più liquidità. Il commento in questo caso è di Guido Tabellini: il nemico dell'inflazione zero. Il nemico dell'inflazione zero naturalmente sarebbe Mario Draghi e la BCE di Mario Draghi. C'è anche l'Expo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, trovate poi tutti gli articoli e ne vedremo anche alcuni a pagina 5, 6 e 7. Il titolo: Expo 2015, la sfida del dopo. Sapete che ieri appunto era l'ultimo giorno di Expo, l'esposizione è durata 6 mesi, c'è stato a chiuderla anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e adesso resta il nodo della destinazione di quel milione di metri quadri di Expo che appunto è un peccato anche per tutte le sarebbe un peccato anche per tutte le infrastrutture che sono state costruite intorno al sito espositivo, che venisse appunto non trovasse una seconda destinazione. Si è parlato, come viene appunto approfondito dal Sole 24 Ore e anche da altri giornali, di tante possibilità, tra cui quella di un polo universitario, il trasferimento di una sede RAI o l'apertura per start-up. Vedremo appunto chi vincerà. Tutti però dicono, a partire dal commissario Sala, che tra l'altro forse tra qualche giorno scioglierà le riserve sulla sua possibile candidatura a sindaco di Milano, in tanti hanno detto che adesso la priorità è proprio pensare subito, a partire da oggi, a quello che sarà il dopo Expo. Vi segnalo due commenti, quello di Lello Naso, che è il caporedattore del dorso di Imprese e Territori, che è forse la parte del Sole 24 Ore che con più assiduità ha seguito l'Expo, anche per tutto quello che riguarda i tantissimi contatti che Expo ha portato soprattutto per le piccole e medie imprese italiane con investitori stranieri e imprenditori stranieri. E allora il titolo del commento di Lello Naso, il metodo Milano, vi leggo la prima parte, poi lo trovate a pagina 7. Non bisogna avere il timore di chiamare le cose con il loro nome. Expo è stato un successo. L'organizzazione, le presenze, la proiezione internazionale di Milano e dell'Italia, le opportunità di business avute dalle imprese e il sistema paese sono state all'altezza di un grande evento internazionale. E l'altro commento di Paolo Bricco, forse il giornalista del Sole 24 Ore che più spesso si occupa di politica industriale: ora il test per il futuro. Anche qui vi leggo le prime righe, poi lo trovate a pagina 5. C'è il Made in Italy e adesso c'è anche il marchio Italia. La maledizione storica italiana, una sorta di regolarità di lungo periodo che si è inacerbata nella perdurante transizione iniziata a partire dagli anni 90, è sempre stata costituita da una infelicissima scissione. Poi appunto trovate scissione tra un po' l'immagine e poi la realtà del paese. Noi siamo sempre stati un paese con delle realtà anche imprenditoriali, benché spesso piccole, invidiate da tutto il mondo, poi però appunto non sempre questa immagine, questo messaggio passava. Ora Expo sembra aver unito queste due facce, come dice, dell'Italia, questa infelicissima scissione di cui parla Paolo Brico. Per quanto riguarda gli interventi fissi della domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, aspetta il pezzo del nostro collega di finanza che si concentra su un solo titolo quotato, questa settimana è dedicata a Fineco, la banca. La prima pagina del Corriere della Sera, vi dicevo, come quella di molti altri giornali, dedicata all'Expo, Mattarella Expo, vinta la sfida, è un nuovo inizio. Poi c'è anche la notizia di Alfio Marchini, che quasi certamente si candiderà con la sua lista, che è più spostata verso il centro-destra che verso il centro-sinistra, ma non è tecnicamente la lista del centro-destra, anche se, come avete sentito nei giorni scorsi, Berlusconi ha detto che Marchini è il suo candidato per Roma, e allora appunto Alfio Marchini potrebbe sciogliere anche lui la sua riserva nei prossimi giorni, però ribadisce: corro con il mio simbolo. La fotonotizia è dedicata alla tragedia aerea di ieri, questo aereo caduto con 224 persone a bordo e 217 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio, tutti morti, molte le ipotesi, si esclude in realtà ufficialmente l'ipotesi terrorismo, ma poi su questa ipotesi si sta indagando. A Repubblica un titolo molto simile a quello del Corriere: Milano Expo, un modello anche per Roma, è un virgolettato sia di Mattarella che del commissario Tronca, che è stato designato, diventerà da prefetto di Milano a commissario appunto di Roma dopo l'uscita di scena di Ignazio Marino. Poi c'è a proposito di Marchini, lo trovate, inizia sulla prima pagina della Repubblica e poi trovate tutto a pagina 10, un colloquio di Francesco Merlo con Alfio Marchini, che ribadisce appunto quello che dice anche il Corriere, cioè: avrò la mia lista e mi appoggino destra e sinistra. Questo è l'appello di questo candidato, che vuole essere il candidato un po' di tutta Roma, non di una parte politica o di un'altra, almeno insomma in questo è il messaggio che lancia con questo colloquio con Francesco Merlo. La Stampa ha in realtà il titolo più alto, diciamo, anche se quello non è quello scritto a caratteri maggiori, però è quello forse che uno nota subito guardando la prima pagina della Stampa, è dedicata allo schianto dell'aereo. Si schianta l'aereo dei turisti russi, la paura dell'ISIS. Perché l'ISIS si è affrettato quasi a dichiarare: l'abbiamo abbattuto noi. In realtà, con uno dei missili portatili che usa abitualmente l'ISIS, non è possibile abbattere un aereo che voli a quella quota, però come dicevo, si indaga comunque sulla possibilità che non sia stato un guasto tecnico o un errore umano, ma in effetti un attacco terroristico. La fotonotizia è dedicata alla chiusura di Expo, questa festa di luci di ieri sera, con l'albero della vita, la scultura di Michele De Lucchi, che tra l'altro è una delle, insieme a Padiglione Italia, è una delle due strutture che certamente resterà anche dopo il dopo Expo. Deve solo, l'albero della vita in particolare deve trovare una collocazione a Milano, mentre Padiglione Italia ovviamente resterà dov'è. E qui il titolo è: l'Italia e l'orgoglio Expo, Mattarella, una sfida vinta. La prima pagina del Messaggero invece ha un titolo diverso, perché ci sarebbe un decreto pronto per il Giubileo. In settimana il Consiglio dei Ministri varerà il provvedimento con competenze e ruoli. Saranno stanziati 300 milioni. Per quanto riguarda le accuse di Marino a Renzi, che appunto l'ex sindaco ha detto che Renzi il mandante testuale della sua caduta, Premier si è affrettato a rispondere: non sono io il mandante, la città non funzionava, ora ridaremo fiducia ai romani. La fotonotizia anche in questo caso è dedicata alla chiusura di Expo. Anche qui si vede appunto una delle cerimonie finali, nella parte dove c'era il teatro di Expo, dove si sono svolti tantissimi spettacoli, tra i quali anche l'esibizione del Cirque du Soleil, ma anche concerti. E quindi la foto è quella, il titolo: Sipario Expo, Mattarella, missione compiuta. Il Giornale ha un titolo diverso: novembre è il mese della stangata fiscale, 2 milioni di tasse al minuto, il fisco ci toglie dalle tasche 53 miliardi. L'occhiello del pezzo del Giornale è sanguisughe di Stato. Però c'è anche un accenno alla questione Marino da Marziano a Martire, mezzo PD lo usa contro Renzi. Questo è uno dei tantissimi retroscena dell'uscita di scena di Marino, che appunto in realtà adesso questa vicenda, che ancora in parte dei contorni poco chiari, anche se forse la lettura più semplice alla fine è quella di Renzi, cioè Marino comunque da una parte ignaro di tutto quello che poi si è scoperto quando è scoppiata l'indagine Mafia Capitale, dall'altra la vicenda degli scontrini e le altre molte gaffe, tra le quali quella del viaggio negli Stati Uniti, dove in un primo momento aveva detto di essere stato invitato dal Papa, ma poi è stato smentito dal Papa. Insomma, tutto questo percorso di Marino lo ha portato appunto a essere sfiduciato. In realtà però si dice, come appunto è la lettura del giornale, che poi il mezzo PD, cioè quel mezzo PD che non starebbe con Renzi, userà questa vicenda appunto come ennesima arma per contrastare dall'interno il Premier, che è anche, lo ricordiamo appunto, segretario del PD. Libero ha un titolo ancora diverso che riguarda sempre le prossime elezioni amministrative per eleggere il sindaco di Roma. Nel centrodestra girano i Meloni, in riferimento a Giorgia Meloni, che era uno dei nomi che si facevano per Giorgia Meloni è numero uno di Fratelli d'Italia, il partito di destra, era uno dei nomi che si faceva per una possibile candidatura del centrodestra a sindaco di Roma. In realtà Berlusconi ha detto che il suo candidato, appunto come abbiamo detto, è Marchini, e quindi addirittura Libero si spinge a scrivere suicidio capitale. Berlusconi in pubblico fa fuori la leader di Fratelli d'Italia dalla corsa al Campidoglio e lei si infuria. Malgrado il PD allo sbando, a Roma la destra rischia di presentarsi con due candidati e quindi, come hanno scritto molti giornali, i favoriti in questo momento, ma mancano ancora quasi sei mesi alle elezioni, sarebbero i grillini, il Movimento 5 Stelle. Roma da bere, il titolo del manifesto, con un riferimento ovviamente alla definizione che venne data negli anni 80 a Milano, cioè Milano da bere. Il Fatto Quotidiano un titolo ancora diverso: i PM vogliono il dossier dei 101, a che cosa ci si riferisce? A Mafia Capitale. La procura chiede al Viminale la relazione segretata sui funzionari legati agli indagati per portarla al maxi processo che inizia giovedì. Ultimo titolo prima della pausa per il metro, e dopo poi ci ritroveremo per approfondire le pagine interne dei giornali. L'Avvenire, che approfondisce le dichiarazioni fatte ieri agli imprenditori e dirigenti cristiani del Lucid da Papa Francesco, da tutelare lavoro e maternità. Troppe donne ancora licenziate perché incinte. E scusatemi, ancora un ultimissimo titolo, quello dell'Unità, proprio su Expo. Abbiamo abbracciato il mondo. Qui mi ha colpita molto la fotonotizia scelta, perché è uno scatto che viene dall'Indonesia, dove da 4 mesi ci sono roghi infiniti che devastano il paese, 117.000 per la precisione. Ma ci lasciamo un attimo appunto e ci ritroviamo subito dopo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Eravamo sulle prime pagine, mancava quella del secolo XIX, e ve la segnalo perché il titolo principale è dedicato all'aereo caduto sopra il deserto del Sinai, l'aereo che da Sharm el Sheikh riportava a San Pietroburgo i turisti russi, e abbiamo visto nessun superstite. Ma la fotonotizia è dedicata in realtà a un'intervista a Marzio Narcisi, qualcuno forse lo ricorderà, e credo, io ne abbiamo parlato tanto qui in quei giorni, alcuni di quei giorni c'ero proprio io a fare la rassegna stampa. Il 14 luglio scorso Marzio Narcisi è un barista di Genova e fu massacrato su un autobus perché da una piccola gang di ragazzi, perché additato come gay e quindi appunto poi massacrato. E quindi qui l'intervista: mi gridavano gay e mi picchiavano, quei ragazzi hanno stravolto la mia vita. Nella foto è ritratto insieme al suo avvocato Umberto Pruzzo, dopo quel pestaggio era rimasto in coma per 3 mesi. L'intervista la trovate a pagina 9 del secolo XIX. E a proposito di omofobia, vi segnalo un articolo a pagina 21 del Corriere della Sera, che è anche richiamato sulla copertina del Corriere della Sera, e si intitola Insulti contro ebrei e omosessuali, Tavecchio, non ricordo, è un ricatto. In una registrazione audio del sito Soccer Life, le nuove frasi shock del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e sentite queste frasi. La sede della Lega Nazionale Dilettanti comprata da quel, tra virgolette, ebreaccio di Anticoli. Altro virgolettato, non ho niente contro gli ebrei, ma meglio tenerli a bada, chiuse le virgolette. E poi, tenete lontano da me gli omosessuali, sempre virgolettato. sono le parole, ci racconta Federica Seneghini in questo articolo, pronunciate dal presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio durante un colloquio con il quotidiano online Soccer Life lo scorso giugno, di cui il Corriere della Sera è venuto in possesso, e lui si difende, attenzione naturalmente, sono evidentemente vittima di un ricatto, non ricordo le parole usate in quella conversazione che potrebbe essere manipolata. Allora, di fronte, io resto un po' così, sempre perplessa da questo tipo di difesa, cioè c'è una registrazione, le parole sono quelle, le frasi sono quelle, e la difesa è la conversazione è stata manipolata. In realtà le parole sono quelle, Federica Seneghini ce le racconta, poi ognuno di noi si fa la sua opinione, non c'è niente da manipolare. Comunque, passiamo a un altro articolo, ma sempre dalle pagine interne del Corriere della Sera. Il titolo è Ma i diritti dei pazienti, ed è un articolo di Giuseppe Remuzzi che fa un po' segue un po' quello che è stato detto nei giorni scorsi, cioè che verranno un po' rivoluzionati i turni dei medici per evitare dei turni troppo lunghi che logorano i medici, ma logorano soprattutto e mettono a rischio la loro capacità di giudizio e di fare le diagnosi corrette, pur con tutti i rischi sempre che esistono di fare una diagnosi non perfetta, perché la medicina non è una scienza esatta. E Giuseppe Remuzzi appunto spiega che con i nuovi turni dei medici che verrebbero diciamo razionalizzati anche per motivi sacrosanti, però servirebbero 20.000 assunzioni che naturalmente non sono in programma, e quindi ci sono dei rischi per la salute dei malati. Vi dicevo gli approfondimenti del Sole 24 Ore su Expo, li trovate a pagina 5, 6, 7. C'è una cronaca appunto dalla grande cerimonia di ieri di Lina Palmerini con le parole di Mattarella, e poi tanti altri approfondimenti per quanto riguarda gli eventi che ci sono stati fuori Expo, la visibilità all'estero con la visita di 60 capi di Stato e di Governo, con gli incontri B2B e questi che sono stati oltre 40.000, come vi dicevamo, molto, molto interessanti, e poi questo numero finalmente superiore al famoso obiettivo 20 milioni, i visitatori alla fine sono stati 21,5 milioni, e ce lo racconta Sara Monaci alla pagina 7. Per quanto riguarda gli altri articoli del Sole 24 Ore, vi segnalo dalla copertina di Imprese e Territori un articolo di Cati Mandurino che parte un po' dalla dichiarazione di Luxottica di due giorni fa. Luxottica, il leader mondiale della produzione di occhiali di alta gamma, produzione e distribuzione di occhiali di alta gamma, una multinazionale da circa 8 miliardi di euro di fatturato, ripeto, leader mondiale, un'azienda italiana ma è leader mondiale, quotata alla Borsa di Milano, e due giorni fa appunto ha annunciato questo patto generazionale, chiamato così perché Luxottica si impegna ad assumere entro il 2018 600 giovani. Ma Cati Mandurino ha sentito il presidente di Confindustria Veneto Miotto, che dice: in regione sussistono le condizioni per nuovi integrativi aziendali, molti gli stimoli dal territorio, un po' appunto sulla falsariga di quello che Luxottica fa con la forza di una multinazionale da qualche anno. Oltre a questo patto generazionale c'è per esempio tutto un sistema di welfare aziendale ormai collaudato e naturalmente molto apprezzato da chi lavora in Luxottica. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo un bellissimo articolo di Shimon Peres, che è stato premier israeliano dal 1984 all'86, poi ancora dal 95 e dal 96, e soprattutto nel 94 ebbe il premio Nobel per la pace insieme a Yitzhak Rabin e Yasser Arafat per gli accordi di Oslo, che poi purtroppo con l'omicidio di Yitzhak Rabin appunto non portarono a quella pace che ancora oggi stiamo aspettando per il Medio Oriente. Sono passati 20 anni dall'omicidio di Yitzhak Rabin e Shimon Peres scrive: caro Yitzhak, il killer non ha vinto, il tuo sogno di pace è ancora vivo. E lo ricordiamo, il killer di Yitzhak Rabin non fu un palestinese ma un estremista ebreo che appunto era contrario agli accordi di pace con la Palestina, con il leader palestinese. Una buona notizia direi per quanto riguarda la giustizia italiana, ce la racconta La Stampa, pagina 11. Secondo il rapporto della Banca Mondiale, l'Italia guadagna 11 posizioni per quanto riguarda appunto il funzionamento della giustizia, soprattutto per quella civile. Le cause sono più rapide, il processo telematico fa risparmiare 43 milioni in un anno. Un approfondimento con un'intervista al Ministro della Giustizia Orlando, perché sapete che una delle tante riforme molto attese ancora in discussione è quella della giustizia, e dice il ministro Orlando: la vera sfida è aggredire l'arretrato nei tribunali del sud. Il paradosso è che non abbiamo soldi per la macchina, ma poi siamo costretti a pagare milioni di euro in risarcimenti per appunto la lentezza delle cause. Sempre dalle pagine interne della stampa vedremo un approfondimento anche sulla Repubblica. Oggi si corre la 45esima maratona di New York, forse la più famosa al mondo, quella che tutti vorrebbero correre se sono maratoneti o anche magari così occasionali, corridori occasionali, appassionati di corsa occasionali o appunto corridori occasionali vorrebbero correre almeno nella vita. Ha un modello che viene definito inarrivabile e per molti non è in realtà una corsa contro il tempo, perché in pochi riescono a fare quei tempi da Olimpiadi che sono di poco superiori alle 2 ore, ma un rito collettivo che funziona anche a guardarlo. E infatti c'è anche, per chi si volesse appunto sintonizzare, c'è anche una diretta TV su Rai Sport 1 a partire dalle 14. Un approfondimento sul voto di oggi in Turchia. Sapete, il voto è stato il voto delle elezioni anticipate convocate da Erdogan, che qualche mese fa non è riuscito ad avere la maggioranza assoluta nelle elezioni e quindi ha convocato elezioni anticipate, con tutte le varie polemiche che ci sono state, per esempio il fatto che ha rimandato d'ufficio, così unico paese al mondo a decidere da solo, la reintroduzione dell'ora solare. Quindi c'è ancora l'ora legale fino a stasera in Turchia, perché lui spera che con il sole vadano a votare più persone. È prevista comunque un'affluenza record superiore al 90%. La scommessa di Erdogan, titola Il Messaggero. E vedremo appunto come andranno a finire queste elezioni, che sicuramente sono molto importanti per la Turchia, ma anche, visto che la Turchia viene sempre definita un po' un paese cerniera tra Oriente e Occidente, anche per gli equilibri e per la lotta al terrorismo in questo momento, perché la Turchia sta dando un grande contributo anche concedendo basi agli Stati Uniti per combattere militarmente l'ISIS. Quindi sicuramente un risultato da tenere sotto controllo. Il Libero è l'unico giornale praticamente che dà spazio a questa emergenza che ha dell'incredibile di Messina, una grande città italiana, siciliana, che è senza acqua da parecchi giorni. Finisce l'emergenza acqua, scrive Libero, resta l'emergenza sindaco. Sistemate le condotte idriche, rimane da risolvere il problema del primo cittadino. L'antitutto a Corniti ci ha messo una settimana per riparare il danno. Cittadini furiosi. E a proposito di salute, anche un dossier, che una guida che il giornale pubblica oggi, è una prima parte, ecco gli ospedali dove possiamo curarci meglio, dove appunto sì, i consigli del giornale per oggi ci sono alcune malattie, nei prossimi giorni ci saranno altre malattie per le quali vengono dati dei consigli, e lo trovate all'interno al centro del giornale di oggi. A proposito di acqua, ma qui è un'emergenza diversa, come sempre l'Avvenire che parla spesso di emergenze soprattutto umanitarie o sociali di cui gli altri giornali non si occupano, questa volta riguarda i campi profughi in Algeria. L'acqua cancella il deserto, emergenza per i Saharawi. Le case di terra e sabbia si sono sciolte come cioccolato. Fino a un paio di mesi fa c'erano 50 gradi e poi appunto le grandi piogge che rendono ancora più difficili i soccorsi. L'Avvenire ci racconta tutto questo a pagina 17. Prima poi della pausa per il traffico, e poi diamo un'occhiata alle pagine, ai supplementi culturali di oggi, vi segnalo un'intervista a Peter Bogdanovic sul Fatto Quotidiano, 2 pagine, e il titolo: da 30 anni cerco di finire l'ultimo film di Orson Welles, di cui è stato anche biografo, da domani forse ci riprovo. E tra l'altro Bogdanovic, forse l'avete sentito, anche io l'ho sentito stamattina in replica, ma della puntata di ieri del Sabato del Villaggio, è nelle sale proprio da pochi giorni con un film, Tutto può succedere a Broadway, che pare essere molto molto divertente e ben riuscito. Ma ci fermiamo un attimo per la pausa per il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna, che dedichiamo come sempre ai supplementi culturali di oggi, e cominciamo dalla Domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola I Santi e prende spunto da una citazione, da una poesia di Vincenzo Cardarelli, e la citazione è questa: ce ne sono di chiese e chiesuole al mio paese, quante se ne vuole, e santi che dai loro tabernacoli sono sempre fuori a compiere miracoli. santi alla buona, santi familiari, non stanno inoperosi sugli altari. E scrive Ravasi, chi come me ha frequentato le scuole superiori alla fine degli anni 50 e agli inizi del decennio successivo, conosce il poeta Vincenzo Cardarelli e forse ha imparato a memoria qualche sua poesia. Il suo classicismo tenero, legato alla nostalgia del passato e al fremito del tempo che fugge come la sabbia di una clessidra, lo rendeva caro ai docenti e accessibile agli alunni. Lasciamoci allora cullare da questa dolce rivisitazione, presente nella raccolta Al sole a picco, delle città e dei paesi dell'infanzia, non ancora secolarizzati, cablati, trafficati come oggi, con le loro edicole e chiesuole di santi alla buona, da Giuseppe a Rocco e Sebastiano, da Agnese a Francesco e Luigi e così via. Una spiritua semplice, ma che faceva levare il capo verso l'alto, l'attesa, la fiducia, l'innocenza e la carità. E invece l'altra rubrica della domenica, Memorandum, di Roberto Napoletano, il nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, dedicata a Milano, a Expo, l'orgoglio civile e la laboriosità milanese stampati in quegli occhi. Roberto Napoletano naturalmente è andato spessissimo a Expo per molti degli incontri che ci sono stati, in particolare parla di quello che c'è stato martedì scorso, dove c'era una giornata della ricerca di Confindustria. Scrive, mi hanno colpito le testimonianze dei tanti giovani di ogni regione d'Italia che hanno scelto di mettersi in proprio, scommettono sull'innovazione e sono stati adottati molto spesso dal Politecnico di Milano. Se vogliamo che torni a crescere un nuovo Giulio Natta, che lo ricordiamo è un chimico che ebbe anche il premio Nobel per le sue scoperte sulla plastica, dobbiamo fare qui, nell'area dell'Expo, che chiude con un successo sul quale quasi nessuno scommetteva, un campus universitario, una vera e propria cittadella dell'innovazione dove manifattura e tecnologia dialoghino stabilmente. Come vedete, appunto, il tema del dopo Expo e questa ipotesi affascinante, speriamo concreta, della nascita di un campus universitario in senso molto moderno, molto contemporaneo, cioè non solo aule dove studiare, ma appunto aule dove chi ha delle idee può venire in contatto con aziende o magari già avere un modo pratico per metterle, per renderle applicabili anche all'industria. La copertina, in realtà il pezzo principale, è dedicato alla nascita del 2 novembre 1815, quindi esattamente 200 anni fa, del più grande logico della storia appunto di questa materia, che è George Boole. Il pensiero scoprì la sua logica. Massimo Mugnai ci racconta appunto come con Boole prese piede la logica matematica che è alla base dell'odierna rivoluzione digitale. Vi segnalo sempre dal Sole 24 Ore un libro sulle signore del mecenatismo, la recensione di Pierluigi Sacco, un tema che tra l'altro è stato affrontato anche agli Stati Generali della Cultura organizzati dal Sole 24 Ore giovedì scorso a Roma, questo del mecenatismo e in particolare del mecenatismo femminile. Una pagina anche dedicata a Pasolini, e per Paolo Pasolini, che il 2 novembre del 1975 veniva assassinato a Ostia. Molto originale la chiave scelta dalla Domenica del Sole 24 Ore. Da una parte Cristina Battocletti, per un po' per luoghi, ci racconta come Pasolini li ha raccontati, soprattutto nelle sue poesie, e in particolare i luoghi della sua terra natale, della sua regione natale, che era il Friuli. Folle intimità friulana. Nella casa materna di Casarsa iniziò a comporre poesie sul tagliamento al primo amore, Bruno, a Valvasone, la scuola. E poi invece un articolo di Stefano Brusadelli sull'altra città, sull'altro luogo dove Pasolini passò poi l'altra grande parte della sua vita, cioè Roma, appunto, dove fu assassinato a Ostia, a 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, Roma zellosa delle baracche. Passiamo invece alla lettura del Corriere della Sera. La copertina, che come sapete è sempre affidata a un artista, oggi è di John Lurie, il pittore, e vi segnalo dall'interno un tema secondo me molto, molto interessante e divertente, che è quello della procrastinazione e quindi il rinvio. Posticipare appare un sollievo, ma farlo all'infinito è devastante, ci racconta Donatella Di Cesare, soprattutto in politica, dove decisionista è un atto d'accusa. E poi un colloquio di Stefano Montefiori con François Veillagan, che è l'autore di questo romanzo France et François, e il titolo del colloquio: La mia vita è in ritardo, che lusso. Quindi il lusso anche a volte di arrivare in ritardo. Per quanto riguarda sempre dalla lettura, vi segnalo poi una bellissima recensione di Guido Santevecchi, di l'ultima biografia in ordine di tempo di Lucian Freud, che oltre a essere il nipote di Sigmund Freud è anche stato forse uno dei più grandi pittori del secolo scorso, il pittore che amava aristocratici e gangster. La copertina invece della Domenica Cult della Repubblica è un viaggio di Riccardo Staglianò a Austin in Texas, dove c'è questo grandissimo archivio letterario che lui definisce il paradiso degli scrittori, e l'articolo è illustrato da un bellissimo disegno di Alessandro Sanna, e all'interno tutte le fotografie anche di alcuni dei testi che lui ha potuto vedere a Austin. Dicevamo la Maratona di New York, un interessante approfondimento di Emanuela Audisio che racconta come naturalmente oggi si corra la 45esima edizione della maratona più bella del mondo, e pensate, all'inizio era vietata alle donne. Ce lo racconta una signora di 76 anni, Nina Kuchnik, che la corse per la prima volta nel 72, cioè il primo anno in cui appunto fu permesso anche alle donne correrla. E a proposito di donne, di grandissime donne, un'intervista sulla Repubblica di Antonio Gnoli della serie Straparlando a Giulia Maria Crespi, che è presidente fondatrice del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Il virgolettato scelto per titolarla: ho lottato tutta la vita per la bellezza perché è l'altro modo di dire la verità. Un'infanzia di privilegi mai nascosti, gli anni difficili alla guida del Corriere con la sua famiglia, la famiglia Crespi, i dolori pubblici e privati, il FAI, l'imprenditrice si racconta. Alias, il supplemento domenicale del Manifesto, ha invece una copertina tutta dedicata all'ultimo libro uscito di Kenzaburo Oe, un grandissimo autore giapponese, che in realtà è un libro del 1989 che ora viene finalmente tradotto da Garzanti. Si chiama L'eco del paradiso, una meditazione polifonica, la definisce Caterina Mazza sul Manifesto, satura di citazioni sul dolore e sul divino, un banchetto intellettuale in forma di romanzo. E infine la copertina di Macro, che è il supplemento culturale della Domenica del Messaggero, non solo della Domenica, ma la Domenica è particolarmente corposo, che ripercorre un pochino la figura di Jack lo Squartatore, perché a Londra ha suscitato molte polemiche la nascita di un museo dedicato appunto a Jack lo Squartatore, che in inglese è definito The Ripper. Quindi l'edificio avrebbe dovuto essere destinato alle donne, ma in realtà ci spiega il Messaggero, non è solo Jack lo Squartatore a essere diventato un fenomeno di culto, sono molti altri criminali che hanno avuto poi lo stesso destino, e qui sono citati Al Capone, Bonnie and Clyde, Billy the Kid, Pablo Escobar e anche Charles Manson, per restare a tempi più vicini a noi. Era l'ultima segnalazione che ho il tempo di farvi, ma come sempre i supplementi della domenica sono ricchissimi, forse c'è un po' più di tempo per leggerli, quindi vi auguro una buona domenica. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, che è riuscito a tenermi nei tempi. Buona domenica, e insomma chi andrà magari anche a visitare i defunti nei cimiteri, anche insomma tutti voi, auguri di una giornata tranquilla, magari non serenissima, per appunto il ricordo del dolore della morte delle persone che ci sono care, ma comunque una serena giornata a tutti da Giulia Crivelli.